Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Passaggio in India, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Adriana Motti. Mrs. Moore ottenne quanto desiderava. Sfuggì al processo, al matrimonio e alla stagione calda. Tornava in Inghilterra con tutti gli agi e i riguardi e avrebbe rivisto gli altri suoi figli. Per suggerimento di Ronnie e per desiderio proprio, essa partì. Ma accolse quella fortuna senza entusiasmo. Aveva raggiunto quello stadio in cui si vedono al tempo stesso l'orrore e la piccolezza dell'universo, quel crepuscolo della doppia visione in cui sono avvolte tante persone anziane. Se questo mondo non è di nostro gusto, ebbene, in ogni caso, c'è il cielo, l'inferno, il nulla, l'una o l'altra di queste grandi cose, quell'immenso fondale di stelle, fuochi, atmosfera azzurra o nera. Ogni sforzo eroico e tutto ciò che è conosciuto come arte suppone che ci sia quel fondale, proprio come ogni sforzo pratico, quando il mondo è di nostro gusto, suppone che il mondo sia tutto. Ma nel crepuscolo della doppia visione si deposita una mota spirituale per cui non si possono trovare parole altisonanti. Non possiamo né agire né astenerci dall'azione, non possiamo né ignorare né rispettare l'infinito. Mrs. Moore era sempre stata incline alla rassegnazione. Non appena sbarcata in India, tutto le era parso bello, e quando aveva visto l'acqua viva nella vasca lustrale della moschea, o il Gange, o la luna presa nello scialle della notte con tutte le stelle, le era parso di aver raggiunto una meta bella e anche facile. Ah, essere tutt'uno con l'universo, così dignitoso e semplice. Ma prima bisognava sempre compiere qualche piccolo dovere, sempre tirar fuori dal mazzo che si assottigliava una nuova carta da mettere al suo posto, e mentre lei si affannava tanto, il Marabar aveva battuto il suo gong. Che cosa le aveva parlato in quella levigata cavità nel granito? Che cosa abitava in quella prima grotta? Qualcosa di molto antico e di molto piccolo. Anteriore al tempo era anteriore anche allo spazio, qualcosa di rincagnato, incapace di generosità, proprio il verme imperituro. Oh, da quando aveva sentito quella voce, lei non aveva più avuto un solo pensiero di largo respiro, era perfino gelosa di Adela. Tutto quello scompiglio per una ragazza spaventata. Non era successo niente. E se anche fosse... Si sorprendeva a pensare col cinismo di una sacerdotessa inaridita. Se anche fosse, ci sono mali più brutti dell'amore. Quell'inqualificabile aggressione le si presentava come amore. In una grotta, in una chiesa. Boom. Il risultato è uguale. Si crede che le visioni implichino profondità, ma aspetta di averne una, caro lettore. Anche l'abisso può essere meschino, e il serpente dell'eternità fatto di bruchi. Il pensiero fisso di Mrs. Moore era: dovrebbero occuparsi meno della mia futura nuora e più di me. Nessun dolore è come il mio. Sebbene poi reagisse irritata quando ci si occupava di lei. Suo figlio non poté accompagnarla fino a Bombay, perché la situazione locale era ancora tesa e tutti i funzionari dovevano restare ai propri posti. Così Mrs. Moore viaggiò senza nessuno che le ricordasse il passato. Fu un sollievo. Caldo aveva avuto una remissione prima del nuovo balzo e il viaggio non fu sgradevole. Quando lei lasciò Chandrapur, la luna, di nuovo piena, splendeva sul Gange e tramutava i riottosi canali in fili d'argento. Poi si spostò e si mise a occhieggiare nel suo finestrino. Il rapido e comodo postale scivolava con lei nella notte, e per tutto il giorno seguente essa corse attraverso l'India centrale, tra paesaggi arsi e calcinati, ma che non avevano la disperata malinconia della pianura. Mrs. Moore osservava l'indistruttibile vita e le mutevoli facce dell'uomo, e le case che egli aveva costruite per sé e per Dio, ed esse non le apparivano come un'espressione del suo turbamento, ma come cose da vedere. C'era, per esempio, un luogo chiamato Asirgar, che essa costeggiò al tramonto e identificò sulla carta, un'enorme fortezza tra colline boscose. Nessuno le aveva mai parlato di questo Asirgar, che pure aveva nobili e possenti bastioni, e alla sua destra una moschea. Lo dimenticò. 10 minuti dopo, Asirgar riapparve. Stavolta la moschea era a sinistra dei bastioni. Il treno, scendendo attraverso i Vindhya, aveva descritto un semicerchio intorno ad Asirgar. A che cos'altro poteva associarlo, se non a quel nome? A niente. Non conosceva nessuno che ci vivesse. Ma quel luogo l'aveva guardata 2 volte e pareva dire: «Io non svanisco». Nel cuore della notte, Mrs. Moore si svegliò con un sussulto perché il treno stava attaccando il dirupo occidentale. I Nacoli illuminati dalla luna si avventarono contro di lei come le creste di un mare. Poi un piccolo frammento di pianura, il vero mare, e l'alba densa di Bombay. «Non ho visto i posti giusti», pensò lei, mentre apparivano i marciapiedi della stazione Victoria. Le rotaie che l'avevano condotta attraverso un continente non avrebbero mai più potuto ricondurla indietro. Non avrebbe mai visitato Asirgar e gli altri posti che non aveva nemmeno sfiorati, né Delhi, né Agra, né il Kashmir, né le più oscure meraviglie che talvolta erano balenate nei discorsi degli uomini, la statua di Sri Belgola, le rovine di Mandu e Hampti, i templi di Khajuraho, i giardini di Shalimar. Mentre in carrozza attraversava l'enorme città che l'Occidente aveva costruita e abbandonata con un gesto di disperazione, provò il desiderio di fermarsi, sebbene quella non fosse che Bombay, e di districare le centinaia di indiani che si passavano accanto per le strade. Le zampe dei cavalli la portavano avanti e poco dopo il piroscafo salpò e migliaia di palme di cocco apparvero tutti intorno all'ormeggio e si inerpicarono sulle colline per farle un cenno di addio. «Dunque pensavi che un eco fosse l'India? Avevi creduto conclusive le grotte Marabar?» ridevano quelle. «Che rapporto c'è tra noi e loro, o tra loro e Asirgar? Addio!» Poi il piroscafo doppiò Colaba, il continente si spostò di lato, le gradinate dei Ghat si dissolsero nella bruma di un mare tropicale. Comparve Lady Mellanby, che le consigliò di non restare fuori con quel caldo. «Visto che ci siamo tirate fuori dalla padella», disse Lady Mellanby, «è inutile cadere nella brace». Con improvvisi cambiamenti di velocità, il caldo, dopo la partenza di Mrs. Moore, accelerò la propria avanzata, finché si dovette sopportare l'esistenza e punire il criminale col termometro a 48 gradi. I ventilatori elettrici ronzavano e scatarravano, l'acqua scrosciava sulle persiane, il ghiaccio tintinnava e dall'altra parte di questi schermi, tra un cielo grigiastro e una terra giallognola, nuvole di polvere si muovevano esitanti. In Europa la vita si ritrae dal freddo e sono nati bellissimi miti del folklore, ma qui la fuga è dalla sorgente della vita, dal sole traditore, e nessuna poesia lo esalta perché le delusioni non sono mai belle. Gli uomini anelano alla poesia, anche se non sempre lo confessano, vogliono che la gioia sia aggraziata e il dolore augusto, che l'infinito abbia una forma, e l'India non li accontenta. La trionfante macchina della civiltà può improvvisamente incepparsi e immobilizzarsi in un carro pietrificato, e in quei momenti il destino degli inglesi somiglia a quello dei loro predecessori, che entrarono anch'essi nel paese con l'intento di riplasmarlo, ma finirono intrecciati nel suo ordito e coperti dalla sua polvere. Adela, dopo anni di intellettualismo, era tornata alle sue genuflessioni mattutine al cristianesimo. Pareva una cosa innocua, era la scorciatoia più breve e più facile verso l'invisibile, e lì ella poteva appendere le sue inquietudini. Come gli impiegati indiani chiedevano a Lakshmi un aumento di paga, così lei implorava da Geova una sentenza favorevole. Dio che salva il re non può fare a meno di aiutare la polizia. La divinità le diede una risposta consolante, ma in quel continuo strofinarsi la faccia con le mani, Adela si prese un'impetigine e le pareva di inghiottire e di espettorare quello stesso insipido grumo d'aria che per tutta la notte le aveva gravato i polmoni. Anche la voce di Mrs. Tarton la infastidì. «Siete pronta, madamigella?» si udì squillare dalla stanza accanto. «Un minuto», mormorò lei. Dopo che Mrs. Moore era partita, era ospite dei Tarton. Erano di una gentilezza incredibile, ma sollecitata più dalla sua situazione che dal suo carattere. Lei era la ragazza inglese che era passata per quei terribili frangenti e per la quale non si poteva mai fare abbastanza. Nessuno aveva idea di quello che le passava per la testa, soltanto Ronnie. E anche lui vagamente, perché dove impera la burocrazia, ogni rapporto umano ne scapita. Nella sua tristezza lei gli aveva detto: «Oh, non ti porto che guai. Avevo ragione, sai. Faremmo meglio ad essere soltanto amici». Ma Ronnie aveva protestato, perché quanto più lei soffriva, tanto più lui la stimava. Ne era innamorata? In qualche modo la domanda era connessa col pasticcio dei Marabar. Le si aggirava per la mente da quando era entrata nella grotta. Era capace di amare? «Miss Quested! Adela! Come diavolo vi chiamate? Sono 7:30, dovremmo pensare a incamminarci per quel tribunale, quando vi sentirete disposta». «Sta dicendo le sue preghiere», interloquì la voce dell'intendente. «Oh, scusatemi, cara, fate pure con comodo. Andava bene la vostra colazione?» «Veramente non riesco a mangiare. Potrei avere un po' di brandy?» domandò lei, abbandonando Geova. Quando glielo portarono, rabbrividì e disse che era pronta ad andare. «Bevetelo tutto. Non è un'idea malvagia quella di un cicchetto. Non credo che mi aiuterà molto, Gran Sahib». «Hai mandato del brandy in tribunale, vero, Mary?» «Lo credo bene. E anche dello champagne. Ma quello è per dopo». «Vi ringrazierò stasera. Adesso sono a pezzi», disse Adela, pronunciando accuratamente ogni sillaba, come se potesse alleviare la propria inquietudine, esprimendola con esattezza. Aveva paura della reticenza, a scanso che vi si annidasse qualcosa che lei non riusciva a percepire. E con Mr. McBride aveva detto e ridetto, in un modo strano e scandito, la sua terribile avventura nella grotta, e come quell'uomo in realtà non l'avesse toccata, ma solo trascinata tutt'intorno e così via. Il suo proposito quella mattina era di dichiarare meticolosamente che la tensione era spaventosa e che probabilmente lei sarebbe crollata sotto il controinterrogatorio di Mr. Amritrao, disonorando così i propri amici. «La mia eco è tornata a tormentarmi», disse. «Un po' di aspirina? Non è un mal di capo, è un eco. Un goccio di brandy?» Incapace di eliminare quel ronzio dalle sue orecchie, il maggiore Callender l'aveva diagnosticato come una fantasia da non incoraggiarsi, sicché i Tarton cambiarono discorso. Passava come un piccolo e fresco colpo di lingua sulla terra, dividendo la notte dal giorno. Sarebbe cessata tra 10 minuti, ma loro potevano approfittarne per correre in città. «Oh Dio mio, sono sicura che crollerò», ripeteva lei. «Non crollerete», disse l'intendente con la voce piena di tenerezza. «No, di certo, è bravissima». «Ma Mrs. Tarton...» «Sì, bambina mia. Se anche crollo, non fa niente. Sarebbe grave in altri processi, ma non in questo. Per me le cose stanno così. Posso veramente comportarmi come mi pare, piangere, essere assurda. Ho la certezza che la causa andrà bene, a meno che Mr. Das non sia spaventosamente ingiusto». «Dovete vincere, immancabilmente», disse l'intendente con calma, e non le ricordò che ci sarebbe stato immancabilmente un appello. Il Nawab Bahadur aveva finanziato la difesa ed era pronto a rovinarsi piuttosto che lasciar perire un musulmano innocente, e dietro le quinte c'erano anche interessi meno puliti. La causa poteva passare da un tribunale all'altro con conseguenze che nessun funzionario era in grado di prevedere. L'umore di Chandrapur stava mutando proprio sotto i suoi occhi. Mentre l'automobile usciva dal muro di cinta, il colpo secco di una futile rabbia schioccò sulla vernice, un ciottolo scagliato da un bambino. Pietre più grosse furono gettate vicino alla moschea. Una squadra di poliziotti indigeni in motocicletta era in attesa per scortarli attraverso i bazar. Intendente ne fu irritato e brontolò: «McBride è una donnicciola». Ma Mrs. Tarton disse: «Beh, dopo la festa del Muharram, una dimostrazione di forza non farà male. È ridicolo far finta che non ci odino. Dai, smettila con questa farsa». Con una voce strana, triste, lui rispose: «Io non li odio. Non so perché». E non li odiava, perché in tal caso avrebbe dovuto condannare la propria carriera come un cattivo investimento. Conservava un affetto sprezzante per quelle pedine che aveva mosso per tanti anni. Dovevano ben valere le sue fatiche. «Fondo qua giù sono le nostre donne a rendere tutto più difficile», fu il suo più riposto pensiero quando scorse alcune frasi oscene su un lungo muro bianco. E dietro la sua galanteria verso Miss Quested era appostato un risentimento che aspettava la sua ora. Forse nella galanteria c'è sempre un granello di risentimento. Davanti alla sezione del magistrato di città si erano radunati alcuni studenti, ragazzi isterici che Mr. Tarton avrebbe affrontati se fosse stato solo. Disse invece all'autista di girare dietro l'edificio. Si recarono nell'ufficio privato di Ronnie, dove si era riunito un gruppo dei loro. Paura non ne avevano, tensione molta, perché continuavano ad arrivare strane notizie. Gli spazzini erano appena entrati in sciopero. Nel pomeriggio sarebbero arrivati quelli del distretto, che se la prendevano meno a cuore per l'innocenza del dottor Aziz, e avrebbero sostituito gli scioperanti. Ma perché era avvenuto un incidente così grottesco? E un gran numero di signore musulmane avevano giurato di non toccare cibo finché l'imputato non fosse stato assolto. Dal momento che erano invisibili, la loro morte avrebbe avuto scarso peso. Parevano già morte. Tuttavia era una cosa inquietante. Sembrava che si fosse diffuso un nuovo spirito, un nuovo schieramento, che nell'inflessibile combriccola di bianchi nessuno sapeva spiegare. La tendenza era di vedere Fielding dietro le quinte. L'idea che fosse debole e stravagante era stata abbandonata. Insultavano Fielding senza mezzi termini. L'avevano visto arrivare coi due legali, Amrit Rao e Mahmoud Ali. Incoraggiava il movimento dei Boy Scouts per fini sediziosi, riceveva lettere con affrancature estere e probabilmente era una spia giapponese. Il rinnegato sarebbe stato ridotto in briciole dalla sentenza di quella mattina, ma aveva fatto un danno incalcolabile al suo paese e all'impero. Mentre loro lo accusavano, Miss Quested sedeva sulla poltrona con la schiena appoggiata e le mani sui braccioli, a occhi chiusi, risparmiando le proprie forze. Dopo un poco si accorsero di lei e si vergognarono di mostrarsi così rumorosi. «Possiamo fare qualcosa per aiutarvi?» domandò Miss Derek. «Non credo, Nancy. A quanto pare non posso aiutarmi neanche io». «Guai a voi se parlate in questo modo. Siete meravigliosa!» «Proprio così», intonò con reverenza il coro. «Il mio caro Das è una persona a posto», disse Ronnie, attaccando in sordina un nuovo tema. «Nessuno di quelli là è a posto», obiettò il maggiore Callendar. «Das lo è, davvero». «Volete dire che ha più paura di assolverlo che di condannarlo, perché se lo assolve perde il posto?» intervenne Leslie con una risatina astuta. Ronnie voleva dire proprio questo, ma gli era caro farsi illusioni sui propri dipendenti, seguendo le migliori tradizioni burocratiche del paese, e gli piaceva sostenere che il suo caro Das aveva proprio quel tipo di coraggio morale da public school. Sottolineò che, da un certo punto di vista, non era male che la causa fosse giudicata da un indiano. La condanna era inevitabile. Tanto di guadagnato se la pronunciava un indiano. A lungo andare avrebbe fatto meno scalpore. Sandro Lombardi ha letto Passaggio in India di Edward Morgan Forster, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.